Buongiorno, come siete belli, siete bellissimi, vi siete guardati? Giuseppe e Micaela erano i più belli, hanno scelto di fare una volontà e di fare la volontà di Dio e di fare la volontà migliore che possa esistere. E stamattina vogliamo, come diceva proprio il pastore, continuare a capire quello che c'è scritto nella parola di Dio. C'è un leggio? Sì? Se c'è un leggio, sono contenta. Io sono Sara, ho 38 anni, ma ne dimostro molto di meno. Grazie Carmine, grazie mille. E sono reduce da un anno strano. Chi di noi è reduce da un anno strano? Può alzare le mani. Certo, questo anno ha fatto benissimo a Micaela e Giuseppe, ma è stato un anno di lockdown. Sapete che il nostro ultimo battesimo insieme è stato il primo marzo del 2020. Primo marzo 2020 eravamo tutta la chiesa riunita per celebrare altri battesimi e la domenica dopo la chiesa era vuota, tutta l'Italia era in lockdown. E non so che cosa ti ha lasciato questo lockdown, a Micaela e Carlo ha lasciato un grandissimo senso di vicinanza di Dio. E voglio parlarvi proprio di questa parola, perché il lockdown ci ha lasciato le mascherine, vero? Tutti stiamo pregando che possiamo toglierle subito. Ma il lockdown è cominciato dicendoci: state attenti, state lontani, perché la distanza è una distanza che ci fa bene, vero? Ce l'hanno detto, continuano a dircelo, dobbiamo avere una distanza di sicurezza. Ancora oggi abbiamo una sedia tra uno e l'altro. Se io ti chiedessi, ora, vai da qualcuno, abbraccialo fortemente, dagli un bacio, penseresti, ma sei impazzita? Sei impazzita, non posso avvicinarmi perché la distanza mi rende sicuro, perché la distanza mi aiuta a non ammalarmi, perché la distanza mi protegge. E questa idea, che è un'idea sana, un'idea giusta dal punto di vista della malattia, della pandemia, però purtroppo mi chiedo se non ha sparato nella nostra mente delle idee che la distanza è buona, che la distanza ci fa bene, che la distanza ci protegge. E tutti quanti noi abbiamo iniziato ad essere distanti. Abbiamo iniziato ad essere distanti dalla nostra famiglia, abbiamo attivato la distanza dalla chiesa, abbiamo attivato le distanze dal lavoro, il smart working, abbiamo attivato una distanza che ormai è nella nostra mente. Ti sei mai... No, io prima salutavo qualcuno di voi e dico... No, come ci salutiamo? Ti posso abbracciare? No, non ti posso abbracciare ancora. Braccio, braccio non va bene, mano, boh. Non lo so, e ti crea quella... Quel disagio. Ve lo ricordate il disagio della prima volta in cui qualcuno è entrato in casa vostra dopo il lockdown? Te lo ricordi il disagio dell'essere andato a mangiare una pizza dopo il lockdown? E dell'essere tornato in chiesa dopo il lockdown? Questa distanza è rimasta nella nostra mente e rimane ancora oggi come un'idea che ci fa bene. Ma chiesa, la distanza ci fa bene per la pandemia. Ma io mi chiedo se nella nostra mente non abbiamo attivato una difesa, una distanza anche da Dio. Ti fa bene stare lontano da Dio? Troppo confusa questa idea. E poi chi è veramente questo Dio? E allora meglio essere distante, meglio attivare tutti quei meccanismi di difesa, meglio pensare che Dio è un Dio distante. Tanto se noi siamo qui, lui è lì, boh, non lo so dove, queste idee continuano oggi, nel 2021, ad essere addosso a noi. E dobbiamo lavorare per capire cos'è in maniera differente. Sapete, quasi 2000 anni fa, a Gerusalemme e in Medio Oriente, c'era il popolo di Israele, c'era l'umanità di 2000 anni fa, che viveva una crisi molto simile a quella nostra. Sapete che Dio ha provato ad avvicinarsi al genere umano molti, molti anni prima, attraverso la legge, attraverso delle prescrizioni. Dovevamo fare così, in questo modo preciso, per avvicinarci a Dio. E tutte queste leggi erano nel popolo, ma non hanno aiutato sempre ad avvicinarsi a Dio. E allora Dio ha mandato dei giudici, Dio ha mandato dei sacerdoti, Dio ha mandato dei profeti per aiutare il popolo, per aiutare ognuno degli esseri umani fino ad allora nato ad avvicinarsi a Dio. E molti ci sono riusciti, ma ad un certo punto Gesù ha deciso di annullare ogni distanza ed è arrivato il momento in cui Gesù è sceso sulla terra. Dio si è fatto carne ed è arrivato sulla terra. E in Lui, solo ed unicamente in Lui, tutta la distanza, tutte le distanze messe fino a quel momento in Lui si annullavano e si annullano oggi. Ed è arrivato sulla terra il Re dei Re. Tutti si aspettavano un uomo forte, con una corona, con una corazza, con un esercito, tutto vestito d'oro. Ed è arrivato un uomo semplice, umile, vestito come gli altri, con i sandali come gli altri, che respirava e camminava e viveva e mangiava come gli altri. E la sua predicazione, il suo messaggio, il suo slogan, indovinate qual è stato? Ve lo dico tra un attimo. Il suo essere sulla terra è stato preceduto da circa 400 anni di silenzio, in cui non era arrivato nessuno a parlare di Dio. Il profeta Malachia è stato l'ultimo. Ma il profeta Malachia, quasi 400 anni prima della nascita di Gesù, ha profetizzato di un uomo che sarebbe arrivato prima di Gesù a parlare di Gesù. Ed è arrivato chi? Giovanni Battista. Un profeta semplice, strano, pazzo. E sapete cosa ha creato? Ha creato hype, come mi insegna mio marito, no? Se Giovanni Battista fosse esistito oggi, lo avremmo visto pubblicare su Instagram pezzi di slogan, e che quando vedi poi tutta la figura allora riesci a capire quello che c'è. Gesù ha anticipato lo slogan, scusate, Giovanni Battista ha anticipato lo slogan di Gesù, e lo leggiamo in Matteo 3. Leggiamo cosa c'è scritto. Giovanni Battista ha detto di Gesù, parlando di Gesù: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Guarda un attimo questa parola, vicino, mettiamola in grande. Come ti senti? È l'opposto della distanza. Mettiti vicino a qualcuno, non so, io prima ero vicino a mio marito, ho cercato di annullare tutte le distanze perché abbiamo bisogno della vicinanza. E sai qual è la prima cosa che Gesù ha detto, il Re dei Re, quando è arrivato sulla terra a salvare l'umanità, a raccontare del regno dei cieli, un concetto complicatissimo? Gesù è arrivato sulla terra e la prima cosa che ha detto, lo slogan della sua predicazione, e la troviamo dappertutto, la sua prima predicazione, e poi manderà anche i discepoli, Matteo 10 è la stessa cosa, e vi dico un po', alla fine della sua predicazione lo ha ribadito Gesù, ha detto queste parole. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è, diciamolo insieme, diciamolo gridando, il regno dei cieli è, il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli non è distante, il regno dei cieli è vicino. E non l'ha detto Giovanni Battista nella sua piena autorità, l'ha detto Gesù in persona. Perché? Lui è arrivato a spiegare secoli, secoli di confusione su Dio. Sapete, nel silenzio di Dio, in quei 400 anni prima di Gesù, sono nati diversi movimenti, tra cui quello dei farisei. I farisei cosa hanno fatto? Hanno provato a mettere insieme una miriade di regole e hanno detto al popolo: dobbiamo fare questo, questo, questo, questo, questo, se non fai questo non vai bene. E Gesù si scaglia contro proprio questo modo religioso, perché Gesù è venuto a rompere la religione. Gesù non ha parlato del regno dei cieli fatto di regole, lui ha soddisfatto la legge, ma Gesù è arrivato e ha detto: eccomi qui. Gesù ha detto: il regno dei cieli è vicino. Una traduzione più precisa, la traduzione più precisa di questa parola è: il regno dei cieli è a portata di mano. A portata di mano. Cioè, lo puoi afferrare. È approcciabile, ti puoi avvicinare, è disponibile il regno dei cieli, è aperto per te. Il regno dei cieli è qui ed è vicino. Il regno dei cieli è vicino. Sai, io vorrei che tu andassi via da questo incontro ricordando semplicemente che il Dio che si sta rivelando a Micaela e a Giuseppe, che si è rivelato così prorompente nella loro vita, ci ricorda oggi che Lui è vicino a te, oggi. Il regno dei cieli è vicino. Quando la Bibbia parla del regno, la Bibbia cita quasi più di 100 volte la parola regno dei cieli o regno solo nei Vangeli e altre 35 volte circa in tutto il Nuovo Testamento. Perché vediamo questo enorme, questa enorme frequenza di uso della parola del regno proprio nei Vangeli? Perché la maggior parte dei Vangeli ci dice che è Gesù che sta parlando, ci racconta la vita di Gesù. Che cosa ci vuole dire Gesù? Chi è Gesù? Cosa vuole dirti oggi dopo 2000 anni? Non lo so in che confusione sei, non lo so in cosa stai credendo, ma la cosa è molto più semplice di quanto tu pensi, perché Gesù l'ha semplificato in una frase: il regno dei cieli è vicino. Ti piace? Ti rilassa? E arriva come un massaggio sulle spalle. Dovrebbe arrivare così, perché tutta la confusione che ci portiamo, tutta la religione che forse ci portiamo addosso, si semplifica qui nel fatto che Gesù è approcciabile, che il regno dei cieli, che è Lui incarnato e che si risolve in Gesù Cristo, è a portata di mano. Che bello questo Dio che abbiamo, che bello questo Dio che abbiamo. Il regno dei cieli è vicino. La vicinanza è il contrario della distanza. La distanza ti dice che devi stare sicuro quando sei lontano dagli altri, quando sei lontano da Dio, sei sicuro di vivere la tua vita. Ma quando sei vicino e le cose cambiano, voglio farci vedere al volo cosa significa vicinanza, cosa significa nella parola di Dio anche vicinanza. La prima cosa è che la vicinanza è influenza. Se sei vicino a qualcuno, tu sei influenzato da qualcuno. Ci hai mai pensato? Il metodo migliore per imparare da qualcuno non è ascoltare solamente gli insegnamenti, non è leggere di qualcuno, ma è stare con qualcuno. Quando stai con qualcuno, tu diventi come quel qualcuno. Ti hanno mai detto: cammini come tuo marito, parli come tua madre? Io questo anno, per me mio marito è stato un anno stravolgente, siamo diventati genitori di due figli straordinari, di 4 e 8 anni, e loro sono la nostra quantità di vicinanza maggiore, siamo stati vicini, anzi vicinissimi. Avete colto la battuta? No. La canzone? Leggero, anzi leggeri? Ok. Andata male, provo un'altra battuta. Anzi, vicinissimi, e loro ci influenzano. Posso dire una parola? Allora, perdonami, mio figlio Abram è nella fase di 4 anni in cui se tu dici la parola cacca, lui ride, ore. Se tu, cioè le sue parole principali ogni giorno sono cacca scorreggia, le dici anche di seguito, cacca scorreggia, vedo che ci sono altri bambini in mezzo a noi, lui ride per ore. Se tu dici cacca scorreggia di seguito, lui ride per ore e lo dice a tutti e si aspetta che tutti ridano. Indovinate noi a cosa pensiamo tutto il giorno? Perché siamo influenzati, perché stiamo con lui e siamo influenzati da lui, perché la vicinanza è influenza. I discepoli sono diventati come Gesù stando con Gesù. Gesù non ha mostrato un esempio su un piedistallo. Gesù è sceso tra gli uomini e ha detto: seguitemi, io faccio così, guardate com'è il regno dei cieli. E ha influenzato, si è mischiato nella vita degli altri, influenzando la vita di chi lo guardava. Se vuoi cambiare, se vuoi diventare come Gesù, tu devi stare con Lui. E mentre stiamo con Lui, noi diventiamo come Lui. Parlavo prima con Giuseppe e mi diceva: ho avuto un sacco di combattimento per fare questo passo, però ho scelto, non l'avrei fatto, però ho scelto. Vedete il cambio? Giuseppe, prima di stare con Gesù, di essere vicino a Gesù, Giuseppe è vicino a Gesù, non è più Giuseppe basta, è Giuseppe con Gesù che fa delle cose come le avrebbe fatte Gesù, con Lui. La vicinanza è influenza. La vicinanza Seconda cosa è vulnerabilità. Stai vicino. No, è disagio, perché qualcuno entra a casa tua, qualcuno entra nella tua vita, non puoi più rimanere con la porta chiusa fuori dalle finestre. Qualcuno entra a casa tua e vede casa tua, e vede dentro casa tua, e vede come tu sei dentro veramente, non in quello che mostri, non nella distanza che hai messo fuori, ma Gesù entra dentro di noi, entra nella nostra vita, perché la sua vicinanza ci deve rendere vulnerabili, deve abbassare le nostre difese. Quando incontriamo Gesù e sappiamo che da Lui possiamo aspettarci il bene, noi dobbiamo arrendere le nostre difese, dobbiamo aspettare che Lui entri e che Lui cominci a cambiare, e non rimani più come prima, non sei più come prima, ma questa cosa è scomoda. E sai da cosa vediamo che Gesù è disponibile ad entrare anche nelle nostre parti più scomode? Rileggiamo insieme Matteo 4. Dice: ravvedetevi, ravvedetevi. Sai che significa ravvedersi? Cambiare, guardarsi bene dall'essere la stessa cosa, porre attenzione a non essere più uguali. E Gesù si stava riferendo proprio a una vita di peccato. Il peccato è la separazione da Dio, è tutto quello che ci allontana da Lui, tutto quello che non ci fa essere vicini a Lui. E guarda un po' che Dio strano che abbiamo. Lui non vuole essere vicino a noi nel nostro meglio, Lui è vicino a noi nel nostro peggio. Chi di noi vorrebbe far entrare qualcuno mentre stiamo peccando? Il peccato è la nostra parte peggiore. È la parte che vogliamo nascondere assolutamente. Anzi, non lo vogliamo dire a nessuno. E anzi, quando veniamo scoperti, e quando ci dicono che Gesù ci guarda e Lui conosce tutto di noi, no! E ci vestiamo di tante cose. E Gesù vuole entrare lì, perché Gesù comincia da lì. Lui non comincerà dalle tue parti migliori, ti assicuro che Dio comincerà dalla tua parte peggiore. Per quello Gesù dice: ravvedetevi. Per questo il Vangelo è una buona, buona, buona notizia. Perché Gesù non ha detto: sono vicino a te quando vieni in chiesa, quando sei bellissimo, quando sei al top, quando sei felice, l'Eterno, il Regno di Dio è vicino. No, Gesù dice: ravvediti. Il Regno dei Cieli è vicino. È proprio perché il Regno dei Cieli è vicino che noi possiamo cambiare. È proprio perché Lui è vicino che noi possiamo abbandonare la nostra vita di peccato. È proprio perché Lui è vicino e rimane vicino a noi, noi possiamo arrendere la nostra parte peggiore. Stamattina, renditi vulnerabile a questo Vangelo. Renditi vulnerabile a questo Gesù, che non è venuto per salvare la tua parte migliore, che non è venuto per darti un sorriso più splendente. Lui vuole entrare nella tua parte peggiore per renderti completamente vivo. Non ti lascerà vivo a metà, non ti lascerà con un pezzo morto. Gesù vuole proprio ravvivarti da dentro, e lo fa attraverso la salvezza, perché Lui è vicino. Ci piace? Terza cosa che è vulnerabilità: la vulnerabilità influenza, la vicinanza influenza, la vicinanza e vulnerabilità. Terza cosa, la vicinanza e speranza. Il Regno dei Cieli è vicino. L'ha detto ad un popolo che non aveva speranza da secoli. Giovanni Battista ha anticipato questo messaggio. Gesù, la prima cosa che ha detto è: il Regno dei Cieli è vicino, e ha concluso. In Matteo 28 leggiamo il grande mandato. E come finisce il grande mandato? Io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Io sono con te fino alla fine. È vicinanza e speranza, ed è la speranza di non rimanere sola, di non rimanere solo, perché quando qualcuno ti dice: ehi, sono vicino a te, hai mai provato la bellezza? Questa è una delle cose che mi è mancata in questo anno, della pacca sulla spalla o di un abbraccio. Che belli gli abbracci. Qualcuno diceva: torneremo ad abbracciarci. Non lo dite in giro, però io abbraccio già parecchio. ok? Non apro una polemica sui vaccini, Green Pass e cose varie, però io abbraccio, ok? Perché mi sono mancati troppo gli abbracci, perché la vicinanza fisica mi è mancata troppo. Ma la pacca sulla spalla, un abbraccio, che cosa è? È speranza. Non sei solo. Non rimani solo nella tua condizione. Non rimani isolato. Un'altra parola che il lockdown ci ha inoculato nella mente. Non sei isolato, non sei solo. Non sei lì bloccato nella tua condizione, ma c'è speranza. La solitudine, l'isolamento, la distanza dagli altri, non so a voi, ma la maggior parte dell'umanità ha fatto una cosa. Fino al 1 marzo, forse fino al 20 febbraio del 2020, eravamo tutti così, a guardare quello che c'era davanti. Era un anno pieno di speranza, pieno di movimento, e ad un certo punto l'isolamento ha abbassato la testa, ci ha fatto abbassare la testa, il nostro sguardo è diventato basso. Abbiamo cominciato a guardare alla fine del primo lockdown, poi alla fine del secondo lockdown, poi all'estate, e poi chissà l'autunno, e poi di nuovo un lockdown, e poi le feste, e poi ora il lockdown, e poi il vaccino, e poi di nuovo un lockdown, e poi l'estate, e il nostro sguardo è sempre qui. La pandemia ci ha abbassato lo sguardo, ci ha tolto la visione, ci ha tolto speranza per il futuro. L'Eterno, il Regno dei Cieli, il Re dei Re, ti dice che Lui è vicino. Quando sentiamo queste parole, per forza la nostra testa deve alzarci. Se sei stato fino ad ora in una valle, con lo sguardo verso il basso, oggi Gesù viene e ti rialza il capo, ti rialza la testa, ti dà speranza, perché ti fa guardare più lontano. C'è di più di una pandemia, c'è di più della distanza, c'è di più dell'isolamento, c'è molto di più. Ce l'hanno insegnato Michele e Giuseppe. Si può essere nel bel mezzo del caos eppure avere una visione, avere una speranza, sapere che c'è un avvenire. Perché? Perché è Gesù che lo provvede per noi. Amen. L'Eterno, il Dio vivente, Gesù Cristo ci dice: ravvediti, il Regno dei Cieli è vicino. Il Regno dei Cieli è vicino. Io vorrei che tu tornassi a casa con questa speranza, con questa vulnerabilità, con questa influenza, che il Regno dei Cieli è vicino. E Lui è vicino questa mattina. E Lui non lascerà che tu torni a casa senza che ti scontri con questa verità. E sei venuto qua, siamo venuti tutti qui per incontrare questa verità, per capire cosa significa per noi questo. Sapete, ho letto questa parte della Bibbia più di un mese fa, eravamo in Matteo, nel libro di Matteo a leggere, ora siamo in Genesi. Ma mentre lo leggevo dicevo: Signore, ma non è possibile che di tutto quello che potevi dire dopo secoli di silenzio, tu, Dio, sulla terra, per la prima volta, la tua predicazione è: il Regno dei Cieli è vicino. E Gesù parlava al mio cuore dicendo: tu hai bisogno di questo, l'intera umanità ha bisogno di questo, ognuno di noi ha bisogno di un Dio vicino, tu hai bisogno di un Dio vicino. E non è un Dio, è il tuo Dio che ha pagato tutto il prezzo per la tua, perché tu possa avere una vita abbondante, una vita eterna. E oggi questo Dio è vicino e ti dice: la vuoi questa vicinanza? La vuoi questa vicinanza? Io sono vicino a te, avvicinati a me. Vogliamo alzarci in piedi. E ci chiedo di prendere un attimo di tempo, che tu conosca già Gesù, che tu sappia esattamente che Gesù è vicino, è già vicino a te da tanto tempo, ma anche se conosci Dio da tanto tempo, io ti voglio ricordare che anche oggi Gesù è vicino, che anche in quello che stai vivendo, in quello per cui abbiamo pregato prima con il pastore, anche in quello Gesù è vicino. Forse sei qui, forse per la prima volta o per le prime volte, senti parlare di questo Gesù che ti sta tediando, che sta bussando al tuo cuore, e quello che ti sta dicendo oggi è: figlio mio, figlia mia. Che così ci chiama Gesù. Ma che strano! Sì, abbiamo un Dio strano. Lui ci chiama figli, perché l'espressione migliore di vicinanza è l'espressione più completa della vicinanza. Non puoi essere lontano da un figlio. Io non posso mettere paletti con i miei figli, né fisici, né emotivi e né tantomeno spirituali. Mio figlio, quando vuole un abbraccio, anche se non glielo voglio dare, lui se lo prende, perché sono figli. Con i figli non ci sono distanze, per questo Gesù ci chiama figli. Lui è vicino, lui è vicino, lui è vicino, lui vuole essere vicino, lui è vicino a te ora. Lui vuole portarti vicino a lui ora. Lui vuole che tu prenda la sua mano ora per farti sentire quanto lui è vicino. Vogliamo chiudere un attimo gli occhi, proprio per riflettere, per metabolizzare un attimo. Stiamo andando velocissimi, però voglio darci un secondo per pensare un attimo a questo. Pensa, rifletti un attimo su quello che la parola di Dio ci ha raccontato in questi semplici versi, in questi piccolissimi versi. Ravvediti, ravvedetevi, il regno dei cieli è vicino. Voglio darci un attimo. Arrendi proprio i tuoi pensieri, le tue difese, tutti i tuoi ragionamenti. Arrendili come li hanno arrese tutte le persone che hanno ascoltato Gesù in persona dire: il regno dei cieli è vicino. Ravvediti, il regno dei cieli è vicino, il regno dei cieli è vicino, il regno dei cieli è vicino. Gesù è vicino, lui è vicino. Io so che il Signore sta parlando al tuo cuore, il Signore sta parlando ai nostri cuori. Gesù sta bussando ai nostri cuori e voglio proprio pregare per te. Lasciami pregare per te. Se oggi stai dicendo sì, oh, mi voglio avvicinare, voglio dare una possibilità, voglio arrendere i miei peccati, voglio cambiare vita, voglio che questo Gesù così vicino entri a far parte della mia esistenza. Se stai vivendo ora questa consapevolezza, se stai prendendo questa decisione, posso chiederti di alzare la mano perché voglio pregare per te. Sì, grazie, grazie. Che bello. Sì, voglio pregare per te. Tante mani che stanno scegliendo di essere consapevoli che Dio è vicino. Amen. Che bello. Proprio perché la Bibbia ci insegna ad avere una fede responsabile per noi stessi. La Bibbia dice: se confessi i tuoi peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci e darci una nuova vita e riscattarci. Allora, vuoi fare questa preghiera con me? E Chiesa, aiutiamo tutte le persone che oggi stanno scegliendo. Alza la tua voce e ripeti con me queste parole credendole. Signore Gesù, io ti accetto nella mia vita. Apro le porte del mio cuore alla tua vicinanza, al tuo perdono, alla tua vita eterna e ti chiedo di lavarmi e purificarmi da ogni cosa passata. Diventa il mio Signore e Salvatore ora. Nel tuo nome potente Gesù. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. E Dio stava aspettando, Dio ti stava aspettando. Gesù fa un appuntamento speciale e oggi ho un appuntamento con te. E con molti di noi. Tu lo sai, vero? Lo sapevi già. Il Signore aveva già parlato al tuo cuore. E Dio farà delle cose tutte nuove. Tutte nuove. Non lascerà niente da parte. Dio farà tutto nuovo. Tutto nuovo. Questo è quello che il Signore fa per ognuno che lo fa entrare. Che lo fa entrare. Fallo entrare. Fallo entrare, se non hai ancora fatto questa decisione, hai detto no, volevo farla, ti voglio dare ancora una possibilità durante questo canto. Fallo entrare, ripeti le parole che abbiamo detto prima, fai entrare Gesù. E alla fine di questo incontro vogliamo regalarti una Bibbia, vogliamo darti un regalo perché tu capisca con la tua testa quello che Gesù vuole fare. Ancora, prendiamo un attimo di tempo durante questo canto, forza, cantiamo insieme e prega ancora un attimo per te. Se devi fare ancora questa decisione, falla oggi.